giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La tragedia della neve sullo Zoncolan, al vaglio le circostanze che hanno portato alla morte di Marco Degli Uomini, 18enne friulano vittima di una caduta rovinosa sugli sci sabato scorso mentre faceva da apripista prima di una gara sullo Zoncolan. Si cercano di chiarire i dettagli che hanno portato a questa nuova tragedia sulla neve. Nicola Conficoni, Marco Salvador, Anna Ciriani, Alessandro Basso, tre candidati uomini e una candidata donna per la carica di sindaco di Pordenone hanno già presentato la documentazione agli uffici del comune e sono dunque ufficialmente in lizza. A San Vito al Tagliamento, cerimonia di intitolazione della principale sala dell'azienda digitale modello LEF a Lorenzo Parelli, il giovane studente tragicamente scomparso nel 2022, l'ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro. Soffia via la paura è lo slogan della campagna per la prevenzione del cancro all'intestino che da quest'anno si celebra in tutta Europa nel mese di marzo. Il comune di Trieste ha proposto al magazzino 26 del Porto Vecchio l'incontro dal titolo Sportivamente Donna con la partecipazione di alcune atlete locali che hanno raccontato le personali esperienze di donne e di sportive. Da domani riprenderà l'attività del velodromo Bottecchia, circuito su cui sono in calendario oltre 16 giorni di gare, di cui la prima in programma il 30 aprile. Tra le competizioni, la 6 giorni di Pordenone in luglio. Le 12:31 minuti, questi titoli. Buongiorno da Giorgio Bearz e Maria Spezia che condurranno questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di lunedì 10 marzo. In apertura torniamo a occuparci dell'incidente mortale sugli sci che è occorso sabato a Marco Degli Uomini, ragazzo friulano di 18 anni, caduto rovinosamente in fase di riscaldamento prima di una gara sullo Zoncolan mentre faceva da apripista alle gare. La morte è sopraggiunta ieri all'ospedale di Udine dopo un rapido peggioramento delle sue condizioni. Ora si cerca di chiarire i dettagli che hanno portato a questa nuova tragedia sulla neve. La pioggia e il cielo plumbeo rendono ancora più triste il lunedì di Tolmezzo, all'indomani della notizia che ha sconvolto la comunità. Il giovane sciatore Marco Degli Uomini viveva qui. Amante dello sport, praticava anche pattinaggio e bicicletta. Era stato a 12 anni campione italiano junior di short track. Ma sono le sue qualità umane che spiccano, sempre disponibile ad aiutare gli altri e curioso. Così lo descrive chi lo conosce, come la vicepreside della sua scuola, il Solari, Francesca Bon, che è stata anche sua insegnante. È stata lei ad aiutarlo nel percorso scolastico dopo che si era dato un obiettivo, diventare pilota di elicottero oltre che maestro di sci, attività per la quale aveva appena passato la selezione per accedere al corso. Marco frequentava la classe terza di meccatronica, a scuola aveva iniziato ad ingranare, specie dopo la breve esperienza in Erasmus in Belgio. All'Istituto Solare di Tolmezzo è stato osservato un minuto di silenzio stamattina prima dell'inizio delle lezioni in un clima di grande dolore. Insieme al comune la scuola sta pensando iniziative congiunte per ricordare il 18enne. Ieri i suoi amici si sono riuniti col parroco Angelo Zanello nella chiesa di Betania, il quartiere dove vive il ragazzo. In sua memoria è stato recitato un rosario. Ancora non si conosce la data del funerale né si sa se dovrà essere eseguita l'autopsia. Tolmezzo, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Intorno alle 8 di questa mattina sulla strada regionale 251 nell'area di San Quirino l'autista di un camion di una società di trasporto rifiuti ha perso il controllo del mezzo fuoriuscendo di strada in modo autonomo e ribaltandosi, perdendo così il carico e rovinando in un fossato. Non ancora note le cause dell'incidente che non ha coinvolto altri veicoli. Lievi le conseguenze per il guidatore del mezzo infortunato. Per le necessarie operazioni di ripristino della strada in via temporanea è stato interrotto il traffico con deviazione in loco. Nicola Conficoni, Marco Salvador, Anna Ciriani, Alessandro Basso, tre candidati e una candidata per la carica di sindaco di Pordenone hanno presentato già questa mattina la documentazione agli uffici del comune e sono dunque ufficialmente in lizza. È già pervenuta anche la documentazione relativa a cinque liste che sostengono Conficoni, cioè Partito Democratico, Italia Viva e le liste civiche Pordenone in Salute, Il Bene Comune e un'altra Pordenone c'è. Sul fronte opposto, a sostegno di Basso, ci sono per il momento la civica del candidato a sindaco, la lista Pordenone Cambia, che fa capo ad Alessandro Ciriani, Forza Italia, Fratelli d'Italia e la Lega. Marco Salvador e Anna Ciriani corrono ciascuno con il sostegno della propria lista civica, rispettivamente Salvador sindaco e Amiamo Pordenone. Ricordiamo che si vota anche a Monfalcone, a Nimis e a San Pier di Sonzo. In quest'ultimo comune è ufficiale la candidatura di Denise Zucco con due civiche e la lista del PD. Per la presentazione di altre candidature gli uffici comunali rimangono aperti oggi fino alle 20 e riapriranno domani mattina dalle 8 alle 12. A San Vito a Tagliamento questa mattina c'è stata la cerimonia di intitolazione della principale sala dell'azienda digitale modello LEF a Lorenzo Parelli, il giovane studente tragicamente scomparso nel 2022 nell'ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro. È stata intitolata Lorenzo Parelli la sala di formazione della LEF, l'azienda digitale modello di San Vito al Tagliamento. Alla cerimonia con i vertici di Confindustria Alto Adriatico e Confindustria Udine, l'assessora regionale Rosoleni, sindacati, i genitori di Lorenzo, la mamma Maria Elena e il papadino, che hanno parlato della necessità di una memoria che si trasformi in atti concreti. In prima fila anche gli studenti dell'Istituto Sarpi di San Vito al Tagliamento, hanno la stessa età di Lorenzo quando 3 anni fa perse la vita nell'ultimo giorno di stage in alternanza scuola-lavoro. Diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro a partire dalle scuole è la missione comune, è stato detto, proprio nel luogo, la LEF, dove è nata l'Alta Scuola di Formazione sulla Sicurezza. Sempre qui è nato il format virtuale che sarà presentato nel padiglione della regione all'Expo di Osaka, che permette attraverso la realtà aumentata di valutare rischi in fabbrica ed evitarli. San Vito al Tagliamento, Natascia Gargano, TG Friuli Venezia Giulia. Sono le 12:36, passiamo al meteo, il cielo è coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 12 gradi, a Gorizia 12 gradi e mezzo, a Udine 11 gradi e mezzo, a Pordenone 11, in area montana Tolmezzo 6, Tarvisio 5, Biancavallo 3 gradi e mezzo, Forni di Sopra 3, in quota su Monte Lussari, su Monte Zoncolan 0 gradi, sulla costa Lignano 13, a Grado 12 gradi e mezzo. E queste le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Dal pomeriggio avremo variabilità con residue precipitazioni, specie sui monti a est, ma vi saranno anche delle schiarite, in particolare verso il Veneto e verso la costa. In serata possibili nebbie in pianura, domani tempo incerto, probabile nuvolosità variabile con qualche pioggia sparsa, specie dal pomeriggio. Quota neve sui 1500 metri circa. Di notte e primo mattino saranno possibili nebbie, specie in pianura. Dopo decenni di attività di screening, l'incidenza del tumore dell'intestino si è ridotta di oltre il 20%, mentre la mortalità è diminuita del 30%. Basta fare un test semplice e gratuito nel mese di marzo, anche se non si rientra nella popolazione over 50, che è quella presa in considerazione dallo screening regionale. Se ne è parlato nella nostra trasmissione del mattino, Buongiorno Regione, con il direttore della struttura complessa di gastroenterologia dell'ospedale di Catinari, Fabio Monica. Soffia via la paura è lo slogan della campagna per la prevenzione del cancro dell'intestino che quest'anno si celebra in tutta Europa nel mese di marzo. E questo perché gli studi stanno evidenziando che soprattutto nei paesi nordici si sta abbassando l'età in cui si manifesta la malattia, anche dopo i 25 anni dunque e non solo dopo i 50. Possiamo pensare che sia una precoce esposizione a quella che è la dieta occidentale, quindi una dieta che è ricca di grassi, di carne rossa, carne lavorata, l'obesità, problema importantissimo che sta colpendo anche il nostro paese, perché sappiamo che almeno anche il 20% dei bambini sono in sovrappeso o obesi, e la scarsa attività fisica, l'alimentazione che non è più quella mediterranea nostra. È uno dei tumori più diffusi, il secondo per le donne e il terzo per gli uomini, ma è anche un tumore lento e proprio per questo eseguire un test semplice e gratuito porta alla diagnosi precoce e di conseguenza ad un'altissima percentuale di guarigione. A che punto siamo con la ricerca scientifica? Ci sono delle ricerche in corso con quella che è cosiddetta la biopsia liquida. Cosa vuol dire? Fare un prelievo di sangue, andare in cerca di quei frammenti del patrimonio genetico delle cellule tumorali che possono quindi segnalare la presenza di un tumore, ma che sono poco adatti allo screening perché riescono a cogliere sì molto bene se c'è il tumore, ma non tutte le lesioni precancerose che sono i polipi, che sono quelle che a noi interessano. Vi do solo due numeri per dirvi: nella nostra regione nel 2023 sono stati riscontrati 107 tumori con lo screening e asportati 640 polipi che sicuramente sarebbero diventate delle neoplasie. Trieste, Vaciuti, GR, Friuli Venezia Giulia. Energia nucleare sostenibile, dialogo con l'industria italiana, opportunità, innovazione e sviluppo è il tema dell'incontro cui parteciperà il presidente della regione Fedriga con Giorgio Graditi, direttore generale dell'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, Enea, che parlerà del nucleare di quarta generazione come scelta strategica per una transizione sostenibile. Appuntamento a Udine, a Palazzo Toriani, alle 17.30. In occasione dell'elezione del decimo rettore dell'Università di Udine, i candidati illustreranno i loro programmi alla comunità accademica e risponderanno ai quesiti posti dal corpo elettorale composto da docenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo e consiglio degli studenti in via Tumadini nell'aula Strassoldo alle 16. Il nuovo rettore si insedierà il 1 ottobre e guiderà l'università per i prossimi 6 anni, dunque fino al 2031. Le votazioni si svolgeranno in modalità elettronica secondo un calendario che prevede 4 date. La prima convocazione al voto è per il 19 marzo. In occasione della giornata internazionale della donna, il Comune di Trieste ha proposto stamane al magazzino 26 del Porto Vecchio l'incontro dal titolo Sportivamente Donna, con la partecipazione degli atlete Sara Lombardi, Giorgia Marchi, Giovanna Micol, Tania Romano e Marta Zanetti, che hanno raccontato le loro esperienze di donne e di sportive. Sentiamo l'intervista alla velista Giovanna Micol, che invita ragazzi e ragazze a praticare uno sport. Fare sport perché fa bene, fa alzare ogni giorno la propria asticella, fa confrontare con se stessi in primis e quindi ti aiuta a conoscerti e a metterti in gioco ogni giorno. È stato scelto di 5 ragazze e 5 sportive di Trieste per parlare di loro in questa giornata vicino alla festa della donna, anche per trasmettere alle ragazze che a prescindere dallo sport che vorranno fare, che desiderano fare, è bene che inseguano questo loro sogno, questo loro desiderio, perché alla fine si può fare sport a diversi livelli, a diverse età abbiamo visto, e anche con diversi obiettivi, perché appunto la prima cosa è mettersi in gioco e confrontarsi con se stesse e se stessi. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Al via oggi la 14ª edizione della Pordenone Design Week, manifestazione dedicata al design in calendario fino a venerdì 14 marzo, che proporrà convegni, laboratori di casi studio aziendali, lezioni in vetrina nei negozi del centro, una mostra diffusa dedicata al Made in Italy. Primo appuntamento la Lectio Magistralis, dal prodotto industriale al valore immateriale del design, di Luisa Bocchietto, dell'Organizzazione Mondiale del Design. E siamo allo sport calcio. In Serie A questa sera alle 20.45 in programma il posticipo con l'Udinese impegnata allo Stadio Olimpico contro la Lazio per proseguire il suo ottimo momento di forma e continuare anche a sperare nella qualificazione in Europa. Per lo sci paralimpico sono state annullate a Sella Nevea le finali delle discipline veloci di sci alpino paralimpico, che dovevano iniziare questa mattina con le prove di discesa e durare fino a domenica. La pioggia caduta sulla pista Canine e le previsioni meteo dei prossimi giorni hanno indotto i responsabili della FIS, la Federazione Internazionale degli Sci, oltre ai tecnici di promoturismo FVG e i volontari dello Sci Club Pordenone, ad arrendersi alle condizioni meteo che non garantivano la sicurezza degli atleti paralimpici. Le finali non verranno recuperate in altre località. Pallavolo nella 2 di volley maschile. La Tinet Prata è stata sconfitta in casa da Macerata per 3-7-1, 25-20, 20-25, 15-25, 29-31 i parziali. Il verdetto sul primo posto in campionato è quindi rimandato alla prossima settimana, quando Prata, che comunque resta prima a pari punti con Brescia ma con un paio di 6 di vantaggio, andrà a giocare a Fano. E nella pallanuoto, nell'anticipo della 9ª giornata di ritorno del campionato di serie A1 maschile, la squadra labardata affronterà in trasferta la Prorecco Waterpolo. Si gioca nella piscina di Sori con inizio alle 14. Da domani, martedì 11 marzo, riprenderà l'attività del velodromo Bottecchia, circuito su cui sono in calendario quest'anno oltre 16 giorni di gare, di cui la prima è in programma il 30 aprile. Tra le competizioni previste, la 6 giorni di Pordenone in luglio, con squadre anche da Nuova Zelanda, Canada e Stati Uniti, che lo scorso anno è stata seguita da quasi 5 milioni di telespettatori Rai. A Bruno Battistella, presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Amici della Pista, abbiamo chiesto quali sono le attività di quest'anno della struttura. In linea di massima stiamo ricalcando l'attività programmata e realizzata negli ultimi 2 anni, con qualche lieve spostamento di date. Abbiamo anticipato per necessità tecniche l'inizio dell'attività, quindi non più a fine marzo ma ai primi di marzo. poi nei prossimi giorni incominceranno le categorie UCI con juniores e dilettanti, e subito dopo a seguire, dopo 8-10 giorni, quindi per la seconda metà di marzo, gli esordienti e gli allievi. Gli allenamenti e la preparazione proseguiranno poi per tutta la stagione, per tutta l'attività fino a fine settembre. Poi, come di consuetudine, a ottobre continueranno i junior e gli under 23 o gli open che ne avranno necessità. Il programma prevede in linea di massima le stesse manifestazioni realizzate negli ultimi anni. Sono 16 o 17 giornate di gara. Quest'anno abbiamo anticipato, per cui la prima manifestazione sarà il 30 di aprile, non più verso la seconda metà di maggio, ma proprio per esigenze tecniche, perché ormai la stagione per le categorie UCI è già partita e di conseguenza c'è bisogno di partire anche con l'attività su pista. I giovanissimi con i primi di maggio entreranno a pieno titolo con una giornata dedicata a loro, mi pare il giovedì, per cui possiamo dire che il velodromo dai primi di aprile a fine settembre sarà praticamente occupato tutti i giorni. Una tripletta da quasi 73.000 euro a Ronchi dei Legionari sono le vincite al lotto dell'ultima estrazione. La vincita più importante, da oltre 52.000 euro, è stata realizzata con un terno oro, due ambi oro e un ambo su nazionale in un punto vendita di Piazza Guglielmo Oberdan. Nello stesso esercizio centrati anche oltre 13.000 euro e un altro premio da 6.500 euro. L'ultimo concorso del lotto ha distribuito premi per oltre 5 milioni di euro per un totale di 271 milioni da inizio 2025. La delegittimazione politica è l'incontro in cui saranno approfonditi i meccanismi con cui si costruisce il nemico nei sistemi democratici, ricorrendo a delegittimazione dell'avversario politico. Interverranno Elena Fabbro e Paolo Ferrari, docente del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Udine, con appuntamento a Palazzo di Topo Wasserman alle 16.30. Tra gli interventi, quello dello storico Gianluca Volpi, docente a sua volta del Dipartimento di Studi Umanistici. Entra nel vivo Percorsi Spericolati, il programma di formazione rivolto ai giovani e ai territori di montagna del Friuli Venezia Giulia, promosso tra gli altri da Fondazione Pittini, Conf Cooperative, Fondazione Friuli, Lega Coop e Università di Udine. Ce ne parla Gaia Calzi, coordinatrice della Fondazione Pietro Pittini. Nasce per mettere in connessione i giovani, quindi i ragazzi e ragazze tra i 18 e i 30 anni circa, con il territorio regionale, in particolare con i comuni montani del Friuli Venezia Giulia. Il progetto nasce perché, come fondazione che si dedica ai giovani, all'imprenditorialità giovanile, eccetera, eccetera, noi sappiamo benissimo qual è il potenziale, quali sono le energie dei giovani, e crediamo che siano una fortissima spinta per il territorio, per tutti i territori, per quei comuni che si stanno sempre di più spopolando, che vedono chiudere servizi e esercizi commerciali. Ma concretamente, come si mettono in connessione giovani e territori? Il progetto è un progetto di formazione, ma anche di scoperta di quelli che sono realmente i territori. La forza, diciamo, del programma è che si tiene effettivamente nei comuni montani del Friuli. Che cosa succede? Noi cerchiamo di formare ragazze e ragazzi perché siano in grado di ascoltare i territori, quindi di capire quali sono i bisogni, quali sono le richieste che le persone concretamente fanno. Li formiamo perché siano in grado di avere gli strumenti per rispondere, e poi li affianchiamo a dei comuni. Quest'anno abbiamo il comune di Comeglianz, i comuni di Tramonti di Sopra e di Sotto, il comune di Vito D'Asio e il comune di Savogna, che hanno deciso di accogliere questo progetto. Quindi cosa fanno? I ragazzi vengono affiancati a queste realtà del territorio, che ascoltano, provano a capire effettivamente che cosa vuol dire vivere e lavorare in un comune montano della regione, e insieme provano a trovare delle soluzioni concrete. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Per gli spettacoli, nell'ambito della stagione della Società dei Concerti di Trieste, oggi in programma un evento per il tradizionale appuntamento del lunedì sera al Teatro Verdi, con il concerto dell'ensemble vocale The King's Singers dal titolo Angeli e Demoni, che proporrà un viaggio musicale attraverso il tempo e la spiritualità alle 20.30. E in occasione della Giornata Internazionale della Donna, visita guidata gratuita al Museo Letz al Femminile, a cura di Gabriella Norio, al Museo della Letteratura alle 17. Seguirà la conferenza Donne e libertà di scegliere il cambiamento, organizzata dalla CISL a Trieste, alla Sala della Piccola Fenice in via San Francesco, alle 17.30. Tra i relatori Nadia Sollazzo, psicologa del punto di ascolto Antimobbing di Trieste, e Don Alessandro Cucuzza, parroco di Valmaura. E la giornata sarà poi conclusa dalla presentazione della rivista Leggere Donna al Museo Lez alle 18. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta da Maria Spezia e Giorgio Beerz, con la collaborazione tecnica di Riccardo Ostoici. Ha collaborato in redazione Cristina Polselli. Grazie dell'attenzione. Appuntamento al prossimo GR alle ore 15. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.